anche lì. Quanto le vuoi conoscere? Uno o due? Numero due. E chi l'ha detto? Oh, signor Bacchi. Ah, lei è inchiesta. Tutta la Savozzi vai. Il segnale è anche più basso, ma da giù stai parlando, sì. Sì, sono giù. Ah, paghi su, per quello sei più basso. Ah, vabbè, ma già attacco su, però. Che gatto sono più basso? 9 più 10. Prima mi arrivi a fondo scala. Critica. Sì, vabbè, già arriveremo a te se avvicini a me, magari non sentirai a Marino, ma a me già mi intende. Sì, lo sentiamo, è giusto. Ha andato se ne. Sì, almeno così non soffre più adesso, andava, se la ciappiamo è buono. Quindi il funerale è domani. Sì, ma domani mattina o domani sera? Boh. Tanto siamo arrivati tramite telefono a me il giornale. Ecco, sei informato presto? Pesce di giro. Vado a gettare, mi chiamiamo in migliore verso le 8. Boh. Vabbè. Andare. Cos'è combinato oggi, signor Bacchi? Come non ci siamo? Devi registrartelo il coso, devi guardare a quanto sta uscendo. Ce l'hai un test? Devi metterlo proprio a coso, devi fargli fare a 13,5, 13,2, una cosa del genere devi fare. Grande. Allora vuol dire che non ce la fa manco quello. Vuole più grosso. Può da 50 ampere te lo devi pigliare. Solo 30 ce la fa, questo è il green. Non avevo la 30, ce l'avevo la 20. Ecco, una volta c'è un po' di differenza, funziona, funziona, non c'è una funziona. L'altro di 8, non ho altro la 30 ampere, e solo funziona benissimo. Se non ce la fa, si torna glielo e te ne fai dare uno da 30. Ma 12 ampere non fa nulla, non è altro. Perché non è che ne vendono molto loro, è un preso. Ti ho preso cosa se disegni in percina. No, non è in percina, un altro, nome c'ha. Abbiamo già avuto amico, non si è uscito. L'hanno proposto di quello da 30. a viaggi di Zenidu? Sì, aereo ero esattamente. Stavo preso io a Roma. Sì, glielo porta una volta all'anno, gliela portano la roba di quella roba lì. Da cosa dovresti andare? Andando verso dove c'è coso, come si chiama, quello che vende roba usata, di coso, vicino al mercato all'ingrosso. Vicino a Portobello, da quello lì ce n'è sempre, ne ha. Io li avevo visti lì, li avevo visti. Oppure dove c'era una volta il mercatone, te ne ammetti, vicino di fronte a Passo in Più. Anche lì mi potresti guardare, che è più vicino. Eppure abbiamo visto io in Chibi. Oppure da quello là che ti ho detto, ti compriso. Quello non sono andato lì, tutti quanti li ho fatti, quello non sono andato, perché non lo sapevo. Domani faccio solito. Ah beh, perché io li avevo visti io lì, e ce li aveva. Basta che chiedi, forse pure che quello, se non ce l'ha te lo buscano. Io due alette c'ha davanti. Sì, e c'è la metà, no, nell'ingresso c'è da una parte e uscita dall'altra. E all'uscita c'è una tavolette vicino al tuo, però è largo 7 cm, non di più. Di lungo è largo. Ah, che gli scriva giro è 10 cm largo. Capito. Se ci va su, largo, la presenza sarà 12-13 cm per 15. Che ci mette troppo ad arrivare, vengono un mese e mezzo vibone ad arrivi. Se te l'avevi ordinato da cosa te l'avrei ordinato? Dalla, come si chiama? Da tablet, da fuori, da Amazon. Sì, ma tu lo puoi arrivare alla scuola, ci metti in cammino, che pensi? C'è un giorno, c'è un giorno. Quello che io li ho visti, che c'era da 12 sino a 30 ampere, no, sino a 40 ampere ce li hanno. E ho preso, solo che vi buoni un mese e mezzo, vi buoni. Come faccio la gamba? Non lo voglio un po'. Infatti devi guardare lì, io ci devo andare da Portobello per vedere se c'è qualche lampada di quelle a coso lì a vedere. Ho fatto prima ordine a mia, mi costa un bel di manco, con 30 euro non me la posso arrivare, ecco cos'è. Va bene, 80, perché c'è un 50 euro, e di marca, lo so che è una magia, ecco non funziona, a me non è che non funziona, che me l'ha portato, ecco se non funziona, ho risciuto, va bene Dio. Ma quello con la lente in mezzo? Chiso, se non funziona, no, non te la vuoi andare giù, ah, che lo fanno nemmeno gli anchivi, ah, so per lì, ma preferibilmente ce li hanno anche i cinesi, ce li hanno. Ma io gli ho detto, lo proviamo, io gli ho detto con la signora, mi hanno portato che funziona, e dopo io non lo vedo come funziona, se non funziona, meglio di andare che su di via le portatori a Romanco. Ah, ma questo ti dici se lo prova se funziona o no? L'altra volta ci sono andato, ma lampade non ne aveva di quelle lì, non ne riesco a entrare di mancuna. E va via anche baracchino, mi così, a seconda mano, però no, non mi via zia come gira. Da Giacca. Chietta che andiamo via, andiamo. Ce l'ho, ma non so chi si però. Abbiamo già buonissimo, è imbaccatissimo lì, vai, alla sapete, tutto il coso, guarda domani se vai là a vedere se ne hanno di quelle lampade, da Portobello è quel cinese lì, e poi me lo dici. Ehi, che si mette con il gancetto anche attaccato al tavolino, c'ha un affare che stringe, anche così mi andrebbe bene, però con la lente in mezzo. Vabbè, domani mattina ci salgo su a vedere se ce l'hanno. Se ce l'hanno la prendo e guardo a vedere se virani. Domani mattina tanto devo andare da quelle parti a accompagnare la mia figlia e a mio nipote, quindi ci guardo a vedere. Tanto sono così sono, già abbaio prima come ti è, se no al prossimo mese mi la ordineggio. No, non serve a me, no, a mia figlia serve, che il prossimo mese viene a metà mese. Viene e quindi serve a lì, serve. E infatti, cioè, non verrà giù, se la regai da davvura, se vuoi regassira. Se no, la ordinei giù io, al prossimo mese. Adesso vedo come sono quelle della Lido. Anch'io ho preso un coso di 4 cacciaviti, l'ho preso, quindi, anzi no, di, non esita, Sì, di quattro cacciavite sono. Che c'hanno il coso in metallo, c'hanno i giri da sopra, lo prendete da mezzo e giri. Hai compreso? Sì, compreso. Ho preso una scatoletta e dentro ci sono quattro, sei cacciavite, sia a stella sia a paletta. Allora, la pinzetta è una cosa, è una provvisura. Sì, già così, sì. Ma ho ordinato l'orologio, ma ho ordinato cosa per chiudere i tappi degli orologi, quelli a pressione. Di quello lì m'ho ordinato. No, oggi che sono in mio figliolano, pure oggi a Ralla, oggi abbracciato, oggi è già abbassato Rupredo, oggi abbassato. No, si è abbassato il vetro, si è abbassato un po', l'ho preso. Ah, sono dovuto portare all'orologiaio perché entrava aria. No, già sono portato dove comprare lì all'orologiaio, quindi provo ad andarlo a ritirarlo questa settimana, devo andare a ritirarlo, che verrà già fatto. No, io gli avevo cambiato la batteria, gli avevo cambiato e poi sono andato a pressare, no, e non vedo che non vedo sia. Ma te la giubilazione ho spostato il vetro, gli ho spostato, è entrato il vetro in dentro. L'ho preso. Ma già mi ha giù slinato il tuo macchinario. È una pinta a pressione che c'ha tanti anelli, c'ha in plastica. No, da Amazon l'ho ordinato. 20 giorni ci mette a arrivare. Saranno, fai uscire la giubbagato, 8 euro e che cosa, la giubbagato. Sono andato in Occhia dalle cinesi e ti costa 25 euro, guscia. Ma io ho preso da Amazon e mi è costato 8,90 euro, mi è costato, e trasporto gratuito. Infatti, sei meglio di me allora. Vabbè, ha fatto così io. Dai, siamo vistati, è buon 30 armadio. Fai bene. Fai bene, Bacchi, e io da 30 armadio di raggio in luce, una cosa che non mi giro. E andate, e vabbè. E poi ho ordinato anche altra cosa, ho ordinato. Ah, beh, tutta a metà già al 7, 8, 9 gennaio. Ci mangiamo, ho ordinato un gioco e mi arrivi mercoledì, arrivi, fanno me ne butti. Ho ordinato un gioco, gli ho ordinato e arriva mercoledì. Tre giorni di lavoro. Infatti mi ha messo così, mercoledì mi ha messo. Ah, gli ho toccata veloce, io. Meglio così. Veloce, 39,90 euro, non lo gioco. Quindi io gioco di più. No, no, se l'ha preso già nel coso che ci ho segnato, se lo prendono da lì se lo prendono. La PayPal è mecadunda, quindi ci ho segnato nel computer con la PayPal inserita, quindi se la prendono da lì con la carta di credito. Ci vuole la batteria, beh, il coso a farlo funzionare con l'alimentatore non ci riesci. Allora cosa di nafuti della batteria, tanto dura poco la batteria. Gusciami. Ma chi? Sulle 50 euro costano le batterie. Lo usi con l'alimentatore, te lo usi. E lo tieni funzionante con l'alimentatore, tanto con la batteria cosa. Io ne aggiungavo della batteria. Aggiungo un parade e si è esaurita. Cosa mi è durata? Da un anno. Ma lo fatto che per la garanzia ve la aggiunto io, chi ce l'ha già chiamato tramite email. Mi ha detto che le batterie non hanno garanzia. Ah, tu mai te non fanno garanzia, un anno di garanzia deve avere. Quindi mi si è rotta prima, si è esaurita prima. Ma per quale non le cambiamo noi le batterie? Ah, giù che ha detto, ma te ne voglio più in chivi. E infatti non ne prendo più. Certo. La batteria io l'ho comprata, l'ho fatta arrivare da fuori perché qua non ce l'avevano. L'ho fatta arrivare da fuori e mi è costato un dato, mi è costato e invece... Ah beh, da un anno mi è durata e non ne bongo più. Vabbè, ma tanto se te lo usi in casa conviene usarlo senza batteria. Io lo uso usando senza batteria, tanto lo uso, sto usando senza batteria, lo uso. Andare vanno senza batteria, io non lo so usare senza la batteria, lo so usare per non scaricarsi, perché si scarica quando la lasci attaccata, si scarica ugualmente. Ah, ne ha aggiungavata. facilissimo il portatile, come lo accendi dopo già via la giuro, già via. E lo puoi adoperare. Invece devo operare il telefonino, tratti un computer che ti viene più bene. Addirittura in inglese, allora vuole portato in italiano, vuole portato. È facilissimo a portarlo in italiano, basta andare dove c'è il coso, va sul menu e cambi la lingua. Dice che si tenga telefono dai miei video, se no mi ero avvicinato, te l'avevi fatto vedere come che devi entrare sul menu e andare sulla e cercare la lingua e cerchi lingua italiana. Sei araba, non verdeci a chi non sei come te. Non sarà così, no. Ah, già c'è scritto lì, entri sul menu, entri nel coso, già te lo dà lui dove è la lingua direttamente, tanto è il tastino che come apri il coso del menu ti dà la lingua, ti dà. Vabbè, no. In caso, sai che non bisogna domani, domani a mangiare, alle 2 manco un quarto, devo darsi dal dietologo, da quello del diabete, dal medico, alle 2 manco un quarto mi ha dato l'appuntamento, poi domani a mangiare non gioco con me migliora, quindi pensa un poco. La prossima volta allora prego cosa mi dice domani, la seconda cosa mi dice è meglio me lo giambo che andrà a giudicare sempre a pressa e lui andrà sempre, l'altra volta me l'ha data a mezzodì e mezzo, me l'ha dato adesso entra dall'una, allora me l'ha data a 2 manco un quarto, chissà che ora entro domani, se mi ha detto a 2 manco un quarto sicuramente ne entra già ridui. Cosa ne so, boh. E infatti allora per cosa mi dici domani, secondo cosa mi dici ando da chi si da mercoledì, vado da quelli al Palazzo Rosa e vedo se ce n'è qualcuno lì e vado lì. Ah, ma chi vi date un appuntamento di datemi? A mezzo con la dottoressa, brava, ma ne dico che venisse due bravi in chili. Sono alle cliniche, sono, si è trasferito nelle cliniche e quindi dal dottor Pacifico, certo, e me Burienni, perché sempre mi dà sempre orari strani, mi ha detto l'altra volta a novembre quando si dice l'appuntamento non l'ha preso, io lo devo prendere, ma lo deve dare lei l'appuntamento, non io, certo. Mi ha fatto le voci, allora l'appuntamento è alle 2 ma con qua, allora vengo cosa mi dice, secondo come te è più bene mi ruggiambo. No, Pacifico si chiama il medico, si chiama Pacifico e ogni volta che non mi dice l'appuntamento non l'ha preso, no, ha agito, ma non deve dare lì l'appuntamento, e si è arrabbiato, ah io mi devo arrabbiare pure, cazzo, ha agito un poco, se non devo già mi dice, me lo zecco un altro, me ne zecco. Pacifico, tranquillo, parte al primo piano, entri e sali al primo piano. Dottor Pacifico, ma posso diventare pacifico io secondo cosa mi dici? Figlio è me ne zecco un altro, me ne zecco, è me andando da Edo. Vabbè, ma a me è da parecchio tempo che mi fendi sempre orari strani mi sta dando, quindi mi sono già cominciando a girarmi io, non mi piace. Oh, prima mi mandava dal gufo, mi mandava. Al gufo mi davano il giorno stabilito e l'ora stabilita mi davano. Ah, ma non mi mandano più al gufo, è compreso. Me la sta dando lui l'appuntamento, però mi dice di prenderlo io l'appuntamento. Cazzo, me lo devi dare tu l'appuntamento, no figliammi io. Gli altri, sai cosa fanno gli altri? Ti danno l'appuntamento per tal giorno. Ecco, con il foglio già. Ma ci dicono ti dazzi nuda, non ti dazzi. E tu lo devi dire tu l'appuntamento. Anzi, tu e fammi così allora. Vabbè che me ne zecco un altro. Io ne sto perdendo la pazienza con questo, sto perdendo, che no, è bravo, non ti sia, però mi trattene da gozo, mi trattene, cazzo, ogni avuta. Mi dati l'appuntamento e poi mi dici che avevo preso io l'appuntamento. Cazzo, siamo andato l'appuntamento per oggi, mi ha dato. Quindi non me l'ha dato lei l'appuntamento, diciamo doveva fare l'appuntamento e vabbè. La prossima volta dico che non mi so più con lei. Ma ci sono già andato, senza foglio non puoi andare in nessun posto, ecco cosa è, ci vuole il foglio, ci vuole che ti rilascia lui, però lui adesso le prenotazioni le sta prendendo tramite l'ufficio che c'ha giù nella Pianterreno, ecco cosa è, lui vuole fare così, e io a me non mi piace a fare così, che devo chiamare io, devo chiamare, è meglio che ti offendi con questo. Impegnativa però devi andare con il foglio che ti rilascia lui, però siccome ti voglio non me ne è più lasciati e quindi adesso vedo cosa mi dice domani, se non cosa mi dice ando da chissà dottoressa che c'è al Palazzo Rosa, vado da lei, gli porto tutti i fogli e vedo cosa mi dice, secondo com'è vado da lì, me ne vado. Oh, ma chili. Te l'ho chiesto se devo passare dal gruppo e mi ha detto di no. Devo passare da giù, devo passare. E mi ha detto di non andarci al gruppo e passare giù e mi daranno loro la prenotazione. E compreso come te che funziona. Dovevo telefonargli io, vado ad avere la prenotazione. E invece no, non me l'hanno dato. E tu sei incazzato, cioè. E ma io mi tocco un po' qui, vado da chi sta dottoressa e me andando con lei, ammennando. Ma come la vado direttamente da quando andà e quando non andà? Infatti prima faceva così, ma invece c'è Girelli, c'è visto. Sta girando io tutto e gli abitanti del paese. E io gli andiamo dove andiamo. Ma ne va a te, va freddo. Infatti. Sta gira perché andiamo già a rigardare dove era freddo, sta gira. C'è questo venticello fresco. Ma da domani dove c'è la giamba un poco, si dovrebbero alzare un po' le temperature. Fra 4 giorni inizia l'inverno. Purtroppo. Siamo nell'era sua e andate. Ah boh, non ne so uno. Cosa vuoi fare? So Eddy. Non vuoi entrare, entrami. Certo. Gian Maria deve essere che fa gente, se no già era entrato. Infatti. No, ma non vi date più nulla in frigge. Troppa roba, beh. Fa fare un ghiaccio. Andiamo, andiamo, bobo. Oh, Giulia. Io ci dovevo fare. Faccio un congelatore, io su che. Funziona! Consuma troppo di corrente, consuma. Infatti io posso fare lavoro e posso fare una caffè di un biglietto di rampo, non me ne posso nulla. Tanto va bene un altro che cosa mi vedo di che date a scappare, mi piglio. No, ce l'ho, cioè il freezer con tre cassetti e poi c'ho il frigo sopra. Oh, me ne prendo un altro, chissà, boh. Con i cassetti però. Io avevo anche il pozzetto, però l'ho eliminato il pozzetto, non mi serve più. mi pare che va già roba di se o no 35-40 anni, mi pare che va già. E allora è già sposino, non vuol proprio di qua. Infatti non bisogna posso pura direttamente. Mi devo fare uno con baccavazzino. Infatti poi prima me ne devo gavare a fura, me ne devo gavare, anche se no andemmo male, andemmo, perché c'è cioè, in un punto che ne devo gavare tutto quanto, ne devo gavare. Infatti un passaggio allora, però un po' di cavallo, però dopo che è un pericolo, vuoi avere lo spazio libero. Infatti. Avere un po' di spazio libero devo avere e ne devo gavare un bel poco di roba per cavanire. Anda, beh, anda. Ha inteso a Luca, ci venne a Graziano. Io per la gente sono Mattesi. Oggi siamo in due giuro, arrivare a me con in più. A che cosa è entrato il coso, buru? Mette si chiama. Mi la metto mentre si chiama e vabbè là. No, a Casalmonte, a Giulio entrava pure Giulio, entrava era un po' capa che non intendo. C'era impegnato, c'era il duburu. C'era impegnato. Oh. Vabbè. Cosa di volere fare? Freddo venire in campagna, Bacchi. Se ce n'era freddo in campagna. E te ne sei andato, guarda, che verrà freddo, vira. E quando è così, lì c'è freddo. Ma poi non lo so quello che lo sapeva, la produce, la roba è fini, la già frutta, ma oggi vede, lei non so cos'era. Nulla, non è che fatto il consenso farmi qualcosa. E se no, il presidente buono posso provare. Infatti adesso bisogna aspettare al tempo buono. Ma mi sa, che tempo buono non c'è per mo bogo. Sì, anche se c'è un po' quello che fa, e se c'è un po' di tempo buono, a trovare la terra, non si può fare nulla. E se la viene un po' quello di guerra, c'è una grandezza, e gli altri siamo 15 centimetri. Ma la cosa di lontano, non va in tempo, perché di resti un po' di tempo buono. La devi mettere fuori, la devi mettere o dentro nel coso? Quindi le cose vanno messe questo mese, vanno messe. ricordo perché mio padre li metteva in dicembre e a marzo raccoglieva le fave, e infatti già è così, sì. E vabbè, faccia gavendina a fava e piante di numeroli e rasindria, faccia. Di quelli lunghi o quelli rotondi? I rotondi, c'è una qualità che devo accendere, sono rosa, e la pesatura 500, 600 grammi, anche 900 grammi, un po' loro. Adesso c'è un officio del catalogo, un altro tipo di pomodoro, sempre per le varie signori, la pesatura dai 400 ai 500, 600 grammi. Va bene così. Oh. Vabbè, è così, andare. Ti faccio amico drummi di nobi. Mi asurrago. Allora, vero, dobbiamo si fare atteso in ovvio. Quindi, dove è nato il tuo gallo? Cos'è il macchino? Non ti ho capito. No. già che non posso mangiare io la roba molto piccante. Aspetta, questo mi cosa mi vuoi far friggere a ganna? No, ma chi? già, non è buono mia moglie di peperone. Perché se no mia figlia la lo vuole molte volte la cosa con il peperone, ma io no assai. Che da poi mi lascia anche, secondo come se ce n'è molto, mi lascia delle chiazze rosse, mi lascia. Anche mia moglie non lo stava mettendo ultimamente, ce l'avevamo, non lo stava mettendo, e poi mi sono accorto che dal peperone mi stava facendo uscire le chiazze rosse, mi stava facendo uscire. Ha detto no, ha detto prova a eliminare a vedere, e non mi sono più usciti, e infatti ho bevarone. Io sono in Bonia, due bettari di Nibunia, pizzicavo un pochino, sì, però alla bui quando me ne ha posto di più coso, mi sono accorto che c'erano delle chiazze, ha detto elimina il peperone, anche se no me con le chiazze non andiamo d'accordo. Ma chi vuol dire che sei abituato al peperone da piccolino, è abituato a mangiare un bevarone, c'ho un cugino io, no, c'avevo un cugino, che se lo mangiava il peperone, era abituato da piccolino, infatti quando scendeva che c'aveva l'orto mio padre, quando scendeva se ne va zia e se lo mangiava, trovi di mangiare il peperone mentre fosse a mangiare il bagno. Si pensi che c'è un bel, no, infatti che andasse da me cugnata e lei lo mette il peperone e mi dice mangia le monzette, che adesso che il peperone non ne mangio io ne manco, ecco cos'è. Lei fa, molte volte fa le monzette e così, i lumaconi, con i lumaconi lo stesso, io non ne do curio di questa roba, mi dice mangia quelle che non pizzica, non le mangio perché so che pizzica. No, io l'insalata di mare ce la mangio, non mi devi bizzicare, anche se no da voi mi dice, a chiazze rosse mi dici, e da voi mi rivede il bullo in faccia, mi rivede. Ma è da un paio d'anni questa cosa che mi sta uscendo, è da un paio d'anni, perché prima mangiavo il peperone ma non mi usciva nulla, ma invece mi sono capito che la mia voce mi mangio il peperone e mi esce le chiazze rosse, mi esce. Lo mangiano gli altri, è peggio per loro. Vuol dire che fanno il freddo a rimanere attaccata a Rongoso. Cosa vuoi che ti dica? No. Ma non sono le 8, sono le 8 meno 6 minuti ci mancano, è 54. Infatti, mi ce l'ho qua davanti, se no, è 55. Per buone appunto, dai, vabbè, va. Infatti, non devi girare appena, devi girare. Sì, ha messo bello, mi ha messo sole e qualche nuvola, quindi già è buono per domani. Sì, no, ci vediamo solo, no, Può essere tutto quanto 30 rusori. E Giulia, che andiamo, dove andiamo? Sì, vabbè, vuol dire che la faccio, è impegnati. Sì, vabbè, siamo bisogno di entrare di oggi, entrare domani. Ciao Bacchi, ci sentiamo domani, se tutto coincide. Ok, ciao Bacchi. Ciao, ciao, ciao. E ciao anche agli ascoltatori, Alessio di Lisa.